larga te persegue, ma la cia sì, noi patro nelle mondo. O cervato, mio figlio è potreguto morto. Tu pianta padre, ti bacio questa mano sante. O figlio, senza regno e fuggente, una voce sentì che mi diceva: vieni con me, sarò tua guida per lì. Divisa. Figlio, che fai? Non senti il suo profumo nell'aria dell'anima? Perdi. Oh, divina bellezza, meraviglia. Io soffro, padre, soffro. Chiamo lo, stringi che me, più parlagli tu. Salvezza non c'è, prendi nella tua mano la sua mano. Signore, andiamo, fanno! La vita c'è laggiù. Questa è la vita, padre. La vita c'è laggiù. Io soffro, padre, soffro. Mi salvezza la vita. notte senza lumicino. Cosa nera, un camino, son più chiare delle limiti tolendo. Ferro, bronzo, muro, roccia, bastina, d'acqua, capoccia, son le lune delle limiti tolendo. Dunque va saluta tutti, varca i monti dalle flutti, dalla larga dagli enimini tolendo. Thank you. Yeah!

e stiamo qui, stiamo qui, stiamo qui, a stillarci il cervello sui libri sacri. Alla cina la pace ridà, Santo scettro

Oh, oh, oh, oh, oh.